Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo subito con le parole di Mario Draghi, il quale, devo dire, a beneficio anche dell'Italia, ha chiarito, come già ricordavano i nostri GR24, che non è stato discusso un cambio di direzione nell'atteggiamento della Banca Centrale Europea. Tradotto questo, cosa vuol dire? Vuol dire che i tassi resteranno ai minimi storici e il quantitative easing, quindi l'acquisto di titoli di Stato e in cambio si stampa anche moneta, ma che mantiene i tassi di interesse bassissimi, negativi, come ricordavamo ieri per i bot a 6 mesi addirittura, continuerà. Quindi tassi bassi ancora a lungo e che verrà ampliato e, se necessario, prolungato. Questo lo dico perché insomma, l'ipotesi che Mario Draghi o che la BCE, a fronte di un'inflazione che torna ad avvicinarsi al 2%, che è individuato come il livello ottimale dalla BCE, né troppo oltre né troppo sotto, l'ipotesi che finisca questo beneficio, ripeto, in primo luogo anche per un paese come l'Italia, viene allontanata oggi dalle parole di Mario Draghi, nel giorno in cui ha annunciato tassi invariati, quindi il tasso principale fermo al minimo storico dello 0%, quello sui depositi bancari meno 0,40, quello di rifinanziamento marginale 0,25%. Questo per quello che riguarda il tema di apertura. Torneremo, perché ieri l'abbiamo affrontato, ma vi torneremo sull'Alitalia, che oggi becca un'altra doccia fredda, e mi riferisco a Lufthansa, per quello che riguarda la l'ipotesi che era circolata di una Lufthansa interessata, seppur con tagli fortissimi, per quello che riguarda, si era ipotizzato addirittura 9.000 dipendenti, o che Lufthansa ne volesse solo 3.000. Lufthansa ha chiarito che non è interessata, abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia. Nel giorno in cui Lufthansa invece ha festeggiato il ritorno all'utile operativo nel primo trimestre dell'anno, più 11%, è la prima volta dal 2008 che Lufthansa chiude non in rosso un periodo tipicamente difficile come gennaio-marzo. Il fatturato è salito dell'11%, e si unisce Lufthansa, seppure ancora non brillante, al ragionamento che facevamo ieri sulle compagnie ex di bandiera che sono risorte e producono utili. Citavamo i casi più eclatanti, perché di paesi insomma, culturalmente vicini a noi, diciamo così, Portogallo con la TAP, la Spagna con l'Iberia, poi c'è anche il caso dell'Olympic trasformata, cioè il cui posto l'ha preso l'Aegean. Insomma, a dimostrazione che non è vero che o la chiudi o la devi mantenere con i 7 miliardi e mezzo che è costata in questi 20 anni all'Italia e ai contribuenti italiani, e 4 miliardi sono gli ultimi anni. Vi torneremo, dicevo, poi parleremo anche, se riusciamo, del maltempo, nel senso che prima la battuta è scontata. Quando non piove gli agricoltori si lamentano della siccità, e c'era stato un problema anche sensibile in Lombardia, nel Lombardo-Veneto. Quando piove troppo si lamentano dell'eccesso di acqua. Non è così, in realtà ci sono timori molto forti sulla produzione di ortofrutta e anche vitivinicola, non tanto per la pioggia quanto per gli sbalzi delle temperature che si sono registrati nel centro-nord, in particolare nelle ultime settimane. Sembra che abbiano compromesso in maniera anche abbastanza preoccupante alcuni tipi di produzioni, da cui la vite non è esclusa. Per quello che riguarda poi, oltre a BCE, Francoforte e all'Italia, la borsa, come sempre, vedo adesso l'indice a meno 1,1%, meno 1% nello specifico, vanno particolarmente male alcuni titoli come Tenaris meno 5%, Unicredit meno 3,40%, Fiat Chrysler realizzi dopo il botto di ieri meno 2,60%, Banco BPM meno 2,5%, Biper meno 2,5%, come Mediaset, Ubibanca meno 2,30%. Invece il fronte opposto vede Atlantia più 2,1, Exor più 1,70, Italgas più 1,5, A2A più 1,30, Moncler più 1,1 come Terna e Ferrari, euro a quota 1,08,68. Non c'è stato un effetto Draghi, come si capisce dall'elenco dei titoli, sulle banche italiane, che hanno molti titoli di Stato in pancia nel loro portafoglio. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina poi di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dunque, no, c'è un ascoltatore che mi scrive su Alitalia, dice si sta spostando l'attenzione sul referendum anziché ingabbiare i manager. Guardi, le responsabilità manageriali le ha chiarite anche ieri il ministro Calenda ai microfoni di Radio 24, la Mix 24, però anche ricordato Calenda che non è che i manager pubblici, penso al caso stratosferico di Cimoli che si prese 6 milioni e 200 mila euro di buonuscita per lasciare una compagnia in ginocchio, perché poi arrivò appunto l'ipotesi Air France e poi da lì invece l'ipotesi CAI che poi andò in porto. Faccio anche notare che gli esuberi contestati dai sindacati ai tempi dell'ipotesi Air France nel finale del governo Prodi erano di 2000. Faccio notare che sono stati molto di più quelli che si sono ottenuti le riduzioni di personale da quando è arrivata la CAI in poi, per cui i sindacati dovrebbero avere anche un minimo di lungimiranza. No, non si sta spostando l'attenzione sul referendum. È che il referendum ha portato per ora in un vicolo cieco all'Italia. Ripeto, uno lo può pensare come vuole, non sto dando un giudizio sul referendum. Evidentemente i dipendenti non si fidano più. Abbiamo criticato molto ieri non tanto il referendum, il voto del referendum, quanto l'assenza nel piano di tagli del piano di rilancio. Cioè si fa presto a fare economia tagliando e va benissimo, però poi devi anche spiegare che deve fare l'Italia da grande o nella sua prossima vita, deve fare le long haul, cioè le rotte lunghe, deve fare le rotte brevi, deve fare concorrenza alle low cost, è in grado, oppure deve concentrarsi solo sulle fasce a maggior redditività, mollando diciamo il campo alle low cost, vista la concorrenza che c'è anche interna al paese, anche per via degli accordi che le regioni fanno per avere grandi compagnie low cost nei loro aeroporti regionali. Cioè, questo è quello che mancava lì. Cioè, vai avanti con la direzione che avevi indicato 2 anni fa all'Italia, che diventa l'hub verso West, quindi verso la parte atlantica, invece poi dirige tutti i suoi voli verso Abu Dhabi e da lì poi uno vola verso l'Asia. Cioè, quello che avevamo capito come piano industriale 2 anni fa. Ecco, di questo non mi sembra di aver visto nessuna traccia nel piano industriale, tutto qua. E avremo molte reazioni, anche ha parlato oggi il ministro Padoan, ha parlato il presidente di Confindustria Boccia proprio sulla vicenda l'Italia. Partiamo anche dall'Italia per il commento dei 100 secondi, dopo sostanzialmente il no di Lufthansa. E nel giorno in cui Lufthansa festeggia comunque il ritorno all'utile in quel trimestre, Boccia tra l'altro ha detto, il presidente di Confindustria, attenzione, in questo paese questa vicenda è lo specchio del paese. Parlava a maggio del centenario dell'Unione degli Industriali di Napoli. Viviamo una fase di emergenza, ma come paese, e non c'è questa consapevolezza, c'è sempre qualcuno che pensa che a pagare sia un altro. E invece in questo momento storico è evidente, occorre scambiare impegni e sacrifici per costruire il futuro. Sugli sviluppi delle vicende, dicevo, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, a firma del vice direttore Alessandro Paterotti oggi, e trasmessi anche su RDS. Per completezza, poi vi torniamo alle 18, devo anche ricordare come oggi Il numero uno di Intesa San Paolo, Carlo Messina, a margine dell'assemblea degli azionisti, ha detto: insomma, siamo aperti a qualunque soluzione che possa garantire la continuità aziendale dell'Italia. Sui giornali ho letto di Lufthansa, poi è arrivata la smentita, ma anche di Ferrovie dello Stato, che potrebbe essere un nuovo modello di integrazione tra trasporto aereo e terra. Non esiste però un piano B portato avanti da Intesa San Paolo e non compete a noi farlo. Allo stesso modo anche il numero uno di Generali oggi in assemblea, Philippe Donnet, ha detto: su Alitalia succede ogni giorno qualcosa di nuovo, aspettiamo le notizie. Le Ferrovie dello Stato a loro volta, in merito all'ipotesi circolata di un'integrazione con Alitalia o un coinvolgimento, per meglio dire, delle ferrovie nel salvataggio dell'Italia, hanno fatto sapere con una nota che in questo momento l'argomento non è di interesse e la società non è stata contattata da nessuno. Insomma, come si chiamava? La bella vermiglia, tutti la vogliono, nessuno la piglia, e insomma, qui per ora arrivano solo no. Comunque, 100 secondi. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Per la saga di Alitalia, ogni giorno c'è una puntata nuova. Questa volta è il possibile partner, dopo che i cinesi, gli arabi, i francesi, gli inglesi e anche i russi si è parlato di un possibile interesse di queste compagnie sull'Alitalia, adesso anche i tedeschi, si è diffusa la notizia che potrebbero essere interessati. Ma proprio così, passati pochi minuti, è stata la stessa Lufthansa a smentire qualunque ipotesi di interesse per l'Alitalia, come se la compagnia di bandiera fosse ormai quasi uno stigma da tenersi vicino che nessuno vuole. Persino gli arabi non hanno stretto e adesso si apre una grande incertezza legata all'esito del referendum. Un referendum che, bisogna dire, sembra quasi il colpo di grazia inferto dagli stessi dipendenti. C'era 1 miliardo di liquidità pronto per poter fare l'aumento di capitale e salvare così i posti di lavoro. Per non rinunciare all'8% dello stipendio, il personale di volo ha così deciso di bocciare direttamente l'ipotesi e di perdere probabilmente il posto. Una scelta molto soggettiva e una scelta che lascia il segno, soprattutto pensando che nel resto dell'industria del trasporto aereo il contratto dall'Italia resta un esempio di eccellenza e di generosità. Ma tant'è, ognuno è padrone del suo destino, il punto è un altro: credere o non credere che l'Alitalia possa essere venduta. Quello che si può dire con certezza è che finché non si avrà un commissario e non sarà presa una via decisa verso la ristrutturazione della compagnia finanziaria e industriale, nessuno si avvicinerà ad Alitalia e quindi qualunque indiscrezione su possibili interessi di matrimonio o di partnership è del tutto campata in aria. Insomma, per ora a terra restano soltanto le realtà di quel referendum e in aria tante bugie. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Andiamo avanti e partiamo come sempre per le notizie in breve da quelle di carattere internazionale. Il presidente americano Trump ha chiarito che, e ha rassicurato i leader di Messico e Canada, che non porterà gli Stati Uniti fuori dal NAFTA, l'accordo di libero scambio del Nord America che include Messico, appunto, Stati Uniti e Canada. Andando ai temi europei, oggi è arrivata, io non so, ma disse Blum, non è che posso sempre attaccarlo, ma quanto è connesso? Questa è la domanda, perché la battuta famosa che fece infuriare i paesi del sud Europa accostandoli a chi spende i propri soldi in alcol e donne, oggi lui ha chiesto scusa, ribadisce le scuse, però ha ribadito il suo pensiero, come quando uno ti chiede scusa però ti dice 2 volte la notizia. Perché ha detto: numerosi deputati sono stati critici sulle mie osservazioni, devo accettarlo, non sulle osservazioni, sull'esempio, dice Blum. Sull'esempio, non sulle osservazioni. Fa bene a dire che bisogna stare attenti a non Dijsselbloem, qualcuno mi corregge già, a non eccedere in spesa. E abbiamo criticato molte volte le manovre anche di questi anni, perché, voglio dire onestamente, continuano a diminuire gli investimenti in questo paese, ma la spesa pubblica rallenta di pochissimo. Allora vuol dire che tu stai spendendo male, o meglio, non stai facendo investimenti, stai facendo spesa, che sono 2 cose molto diverse nella vita, come sa qualunque padre o madre di famiglia. Però, continua a dire bisogna stare attenti, il dibattito della base rimane valido, tutti devono rispettare gli accordi. Vabbè, ne prendiamo atto e così l'archiviamo. Invece Oggi il Presidente del Consiglio Gentiloni è intervenuto sulla Brexit, dopo che Angela Merkel ha avvertito che il Regno Unito non potrà avere gli stessi diritti di uno Stato dell'Unione Europea. Beh, questo mi sembra il minimo, mi sembra scontato. Gentiloni ha detto: Brexit è stato un riflettore acceso su uno dei momenti di difficoltà e crisi più significativi nella storia dell'Unione Europea, ma non ha rappresentato la miccia per la sua implosione. Una cosa è certa per quanto riguarda la definizione di questi nuovi rapporti. Quale sarà poi lo sbocco finale? Io mi auguro che sia uno sbocco giusto, equo, che difende i nostri interessi e i nostri valori, ma che non ha nessun intento punitivo verso il Regno Unito, e so che sarà uno sbocco che non consentirà una sorta di utilizzo alla carte del mercato unico europeo, perché tutto possiamo immaginare in questo negoziato tranne il fatto che il mercato unico, che è una conquista straordinaria, possa essere scelto per alcuni suoi aspetti, gli interessi magari delle imprese o della finanza, e rifiutato per altri aspetti, la libera circolazione delle persone, per esempio. Allora, vedo molte domande sull'Italia, invece al 349-238-6666 sui voli. Allora, Alitalia ha ribadito in una nota che non vi è stato e non vi sarà alcun impatto dell'attuale situazione sull'operatività e sulla programmazione dei voli operati dalla compagnia. È giusto che gli ascoltatori lo chiedano, perché c'è il primo maggio, ci sono i weekend, ci sono tutti i voli prenotati, immagino, anche per l'estate, per cui i voli e i servizi si svolgeranno come previsto e senza alcune modifiche. I biglietti già acquistati sono pienamente utilizzabili e sono prenotabili tutti i voli futuri, e i frequent flyer possono continuare a accumulare e spendere come di consueto le miglia per i voli e i servizi della compagnia. Una nota importante, perché al di là del caso dell'Alitalia, molti poi sono clienti di Alitalia e quindi vogliono sapere che cosa succederà ai voli prenotati o che hanno intenzione di prenotare. Per quello che riguarda ancora due notizie sull'Italia, l'asta di oggi, a luce anche delle decisioni di Mario Draghi, ma insomma, l'asta di BTP, il tasso era 10 anni, in lieve rialza al 2,29%, fermo invece quello sui 5 anni. Buona la domanda. Domanda superava i 12 miliardi, assegnati in tutto 8,75 miliardi, con una domanda appunto che ha superato i 12. Per la precisione, il BTP a 5 anni è rimasto fermo all'1,04% lordo, e quello a 10 anni è salito appunto al 2,29% lordo. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Iniziamo dal primo tema, che in realtà è un piccolo approfondimento: i dati dell'Istat di oggi sulla dell'Inps, scusatemi, e dell'Istat sulla disoccupazione. La classifica a livello europeo sono abbastanza deprimenti per quello che riguarda l'Italia, e tre regioni che abbiamo citato nella nostra poco invidiabile classifica molto spesso, nell'ultimo caso, visto che domani torna la classifica degli sprechi, anche oltre che per l'incapacità di gestire i soldi che hanno, anche per l'incapacità totale di ricevere i finanziamenti europei, che sono i cosiddetti piani di coesione territoriali. Abbiamo fatto quello che, insomma, lo dico a chi mi sta scrivendo, quello che ieri Borghi non voleva capire: non è quanto noi versiamo all'Europa e quanto l'Europa ci dà indietro. L'Europa poi ha un pacchetto di miliardi, noi siamo i secondi destinatari dopo la Polonia. Il problema, se volete domani ricordo la notizia, è che mentre alcune regioni si sono già mosse, le regioni che ho appena citato in particolare, che ne avrebbero più bisogno, sono ancora a zero sui bandi e la capacità di utilizzare questi soldi. Stiamo parlando di 7 miliardi solo per la Sicilia e una cifra simile per la Puglia, un po' più bassa per la Sardegna, ma sono regioni che adesso vi racconterò vantano un poco invidiabile primato proprio sulla disoccupazione giovanile. Parliamo dei dati infatti diffusi da Eurostat. Allora, la regione di tutta Europa dove il dato sulla disoccupazione giovanile è peggiore è la Calabria, 58,7%. Ora noi possiamo anche immaginare, anzi più che sappiamo che vi è anche il lavoro nero nel sud soprattutto, per carità, però il dato poi non è che può sfuggire alla logica statistica. 58,7% non c'è. Peggio della Calabria fa solo in realtà Ceuta che è Melilla, che sono le due, diciamo così, città spagnole in Marocco. 69% Ceuta e Melilla, ma sono due piccole, piccolissime città, e Melilla è il 63%, sono l'enclave spagnola in terra d'Africa. Alle spalle della Calabria si sono piazzate nella top 10 della disoccupazione giovanile, poco invidiabile anche questa, l'Andalusia 57,9%, e poi la Sicilia 57,2%, la Sardegna 56,3%. Quindi praticamente nelle prime 10 ci sono tre regioni italiane, la peggiore è la Calabria, poi quinta la Sicilia e Sardegna la sesta. Ecco perché fa venire i nervi quando poi gli amministratori regionali, i dipartimenti tecnici, i consiglieri, gli assessori, tanto attenti ai loro vitalizi, non voglio anticipare la puntata di domani, però insomma non riescono poi neanche a fare il loro lavoro, altro che vitalizio, ma neanche il tuo lavoro, cioè predisporre dei bandi veri per, che non vengono bocciati da Bruxelles, per utilizzare i soldi europei che sono sempre in confinanziamento con quelli italiani. Dai. Sì, si dimentica dell'Andrangheta, mi scrivete, molti lavoratori lavorano in nero, ho capito, però poi insomma, non è che possiamo proporre il nero come l'alternativa al dato ufficiale dell'Istat. E poi l'INPS con i dati. Allora, due cose ancora. L'Istat che fa notare come sale la fiducia delle imprese ad aprile ai massimi dal 2007, il quarto rialzo di fila nella fiducia delle imprese, mentre è stabile quella dei consumatori. Vorrei parlare dei dati INPS diffusi oggi, perché da un lato scopriamo che a marzo 2017 c'è stata una vera e propria corsa all'acquisto dei voucher in previsione dell'abolizione dello strumento. Anche qui vogliamo ritenere che fossero tutte persone che vogliono utilizzare, mascherare altri rapporti di lavoro. Non è vero, ci stanno scrivendo ancora decine di ascoltatori che o utilizzavano i voucher come datore di lavoro per lavori, lavoretti, si è chiamati una volta, oppure hanno, addirittura molti sono genitori di figli che utilizzavano i voucher per le ripetizioni, per andare a lavorare in una gelateria. Li cito a memoria quelli che mi sono arrivati e che dicono adesso come faremo. Questo è il massimalismo della CGIL, che pure i voucher li aveva utilizzati a man bassa su profili giusti, pensionati per esempio, un'altra categoria che utilizzava i voucher, cioè avere buttato via tutto, il bambino e l'acqua sporca, ma tant'è, no? La battaglia era ideologica sul voucher, mica bisognava restringere e controllare bene l'utilizzo, bisognava buttarli via nell'ipotesi che tanto dopo il voucher non c'è il lavoro nero ma c'è il tempo indeterminato, è ovvio, no? È un mio commento personale, ma questo dimostra insomma in che pianeta vivono certi sindacati. Allora, in 17 giorni 10 milioni e mezzo di voucher utilizzati a marzo. Questo è mezzo dell'osservatorio INPS sul precariato. Comunque ne sono stati venduti un po' meno nei primi tre mesi del 2017 rispetto ai primi tre mesi del 2016. Saldo positivo, il dato sempre dell'INPS, tra assunzioni e cessazioni di lavoro di 18.000 unità, cioè ci sono stati nei primi due mesi del 2017 258.952 contratti a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni, in calo sullo stesso periodo del 2016, e poi le cessazioni sono state 240.000, quindi il saldo resta positivo di 18.000 unità tra chi è stato assunto a tempo indeterminato e chi invece il lavoro l'ha perso, ma è un saldo più debole rispetto è la metà quasi dei 31.000 dei primi due mesi del 2016, a dimostrazione, come dicevano anche i nostri ospiti, che l'effetto si sta sostanzialmente si sta esaurendo, e soprattutto nei primi due mesi del 2015, quando vi erano gli sgravi contributivi totali per tre anni, quando furono 135.000, quando il saldo fu di 135.000 tra lavori attivati con contratti a tempo indeterminato e contratti invece cessati. Su questo è intervenuto anche il presidente dell'INPS Boeri oggi a Roma, presentando il Festival dell'Economia di Trento, in cui, come ogni anno, se non ci sono novità, anche Radio 24 sarà presente e protagonista con i nostri studi lì a Trento. Ha parlato dell'APE, l'APE Social. Siamo molto vicini al risultato, ha detto Boeri. Siamo pronti nel momento in cui fosse pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio, a partire ci metteremo mezza giornata per partire. Per l'APE sociale direi che siamo molto vicini al risultato, nel senso che noi siamo pronti nel momento in cui venisse pubblicato il DPCM, credo nel giro anche di mezza giornata abbiamo già praticamente la circolare pronta, quindi a meno che ci siano dei cambiamenti indotti dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei Conti, noi siamo in grado di procedere nella raccolta delle domande. Voi sapete che inizialmente c'è la raccolta delle domande fino a giugno, poi ci sarà una graduatoria, comunque noi siamo in grado di operare in questa direzione. Per quanto riguarda l'APE volontaria, mi sembra di capire che ci sia un'interlocuzione ancora in atto e diversi aspetti di dettaglio che devono essere ancora definiti. Noi abbiamo fatto tutto il possibile per predisporci a questo compito, per cui crediamo che nel momento in cui dovesse uscire un DPCM, a meno, ripeto, anche in questo caso di innovazioni, di poter fornire almeno fin da subito il simulatore sul sito dell'INPS, che permetterà a molte persone di capire come funziona questo prodotto. Ecco, ho sempre pensato, e credo che la filosofia che noi abbiamo è quella di vedere questa occasione come un'occasione per promuovere grande consapevolezza e informazione tra i lavoratori italiani. Allora, vedo molti messaggi, sì, sui voucher c'è molta prostituzione, mi scrivono anche molti insegnanti dicendo, beh, adesso voglio vedere chi ci dirà ancora che non possiamo fare il nero. Sì, per esempio gli insegnanti che devono ripetizione, è un tipico caso di voucher. Ma ripeto, il problema è l'alternativa. Se il sindacato, nel caso specifico la Camusso, che ha fatto una battaglia su questo, la CGIL, pur avendo utilizzato, quante ore erano? 800.000 ore. Adesso vado, però, questo dato poi ve lo confermo. Il problema è che se si immagina che poi tutto quanto verrà regolato da contratti di lavoro, allora i voucher non servono, certo. Infatti, chi ha mai visto in questo paese gli insegnanti da ripetizioni in nero o alcuni lavori non, diciamo, non continuativi, mi riferisco a lavori domestici fatti in maniera occasionale o a lavori di assistenza, anche gli anziani fatti in maniera occasionale, fatti in nero? Nessuno. Questo è un paese dove il nero non esiste. Ha ragione il sindacato, mettilo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova. Pantera.it col TH. Vi presenta Focus Economia. Minuti, sì, sono d'accordo con molti che mi scrivono, guardi che i voucher li ha aboliti il governo e non la CGIL. Ho detto che l'atteggiamento della CGIL era assurdo, perché si poteva chiaramente modificare i voucher, fare maggiori controlli, avere dei limiti, mettere la data e l'ora d'inizio. Che li abbia eliminati il governo è stato un atto di, non so come si possa dire, un termine economico potrebbe essere calata di braghe o brache, cioè proprio di codismo, di insipienza, di, ma non lo so, proprio al primo bau. Allora fai fare il referendum, se non hai paura del referendum, o se no li modifichi, o ti spiega, almeno tieni fede alle tue idee, se no vuol dire che sei una banderuola. Abbiamo criticato in tutti i modi il governo, in quel caso quindi d'accordissimo che la calata in questo caso l'abbia fatta il governo con una mossa veramente. Vabbè, andiamo da Alessandro Melli. Prima devo dire però una notizia, perché oggi l'assemblea degli azionisti del gruppo Espresso ha approvato l'aumento di capitale che permette la fusione con Itedi, e quindi la fusione con del gruppo Espresso, e che trasformerà da gruppo Espresso, si chiamerà Gedi Gruppo Editoriale SpA, questo per integrare Itedi e gruppo Espresso. e la fusione già molte volte annunciata che Repubblica stampa per farsi capire, conferma la volontà di Exor di essere il secondo maggiore azionista di Geli dopo l'azionista di controllo CIR, ha detto il presidente di Exor John Elkann. De Benedetti, grande passo per questo gruppo, l'integrazione con l'Italia ed è più volte carezzata anche da Caracciolo. E poi il numero uno del gruppo Espresso, Monica Mondardini, che ha detto: in un mercato debole è meglio essere forti. Qui mi fermo perché sennò poi vado in conflitto di interessi. Allora, Alessandro Merli in collegamento con noi da Francoforte, buonasera. Sì, buonasera a voi. Mario Draghi, partiamo subito sui tassi e il QE ha fugato ogni dubbio in chi diceva adesso con l'inflazione che si avvicina al 2%. Mario Draghi cesserà nei tempi previsti l'acquisto di titoli di Stato e i tassi a zero. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre periodiche analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di mantenere invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano a livello attuale o più basso per un periodo prolungato e anche ben oltre l'orizzonte temporale del programma di acquisti. Riguardo le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che gli acquisti continueranno all'attuale ritmo mensile di 60 miliardi fino a fine dicembre 2017, o anche oltre se necessario. E in ogni caso, finché non vedremo un aggiustamento durevole dell'evoluzione dei prezzi, coerente con il nostro obiettivo di inflazione. Un significativo grado di politica accomodante è ancora necessario per favorire un aumento dell'inflazione e darle un sostegno nel medio termine. Se le prospettive diverranno meno favorevoli o se le condizioni finanziarie risulteranno non in linea con ulteriori progressi verso un aggiustamento durevole dell'inflazione, siamo pronti a incrementare il programma di acquisti in termini di entità e/o durata. We stand ready to increase our asset purchase program in terms of size and/or duration. Allora, Alessandro Merli, insomma, per ora io lo dico da italiano in questo caso, visto che tutto ci manca, che, tranne che Mario Draghi inizia a far capire che sta per rialzare i tassi di interesse e soprattutto porre fine a QE, mi sembra che i 60 miliardi al mese dureranno fino a dicembre e comunque finché l'inflazione non mostrerà un ritmo di crescita al 2% in maniera più robusta, in maniera più strutturata? Sì, non c'è nessuna novità, né era attesa nessuna novità dalla riunione del Consiglio di oggi. L'unica infinitesimale o marginale modifica sulla quale naturalmente si è già spesa l'esegesi dei mercati finanziari nella comunicazione di oggi di Draghi è che i rischi che prima per le economie dell'Eurozona, che prima erano visti unicamente al ribasso, sono tuttora al ribasso, ma si stanno muovendo verso una posizione più equilibrata. Ora, se questo vi sembra un po' una questione di lana caprina, probabilmente lo è. In realtà Draghi doveva convincere che la situazione dell'economia è migliorata, ma quella dell'inflazione ancora no, per cui non c'è nessuna ragione per modificare la linea di politica monetaria, che resta, come dicevi, acquisti di titoli di 60 miliardi fino alla fine di quest'anno, presumibile riduzione progressiva, il cosiddetto tapering, a partire dal 2018 e a rialzo dei tassi solo dopo la fine di questa riduzione, quando sarà arrivata a zero gli acquisti dei titoli, il cosiddetto QE. Quindi non cambia assolutamente niente nella linea di politica monetaria della BCE. Quello che ci si aspetta è che probabilmente a giugno, se si confermeranno i segnali che l'economia sta migliorando e quindi forse sta dando un po' di spinta anche all'inflazione, a giugno la BCE cambia un po' il suo linguaggio, la sua comunicazione, ma ancora non la politica monetaria in senso stretto, il che probabilmente dovrebbe avvenire attorno a settembre. A settembre, in vista di questa data della fine dell'anno, la BCE ci dirà che cosa intende fare nel 2018, però fino ad allora tutto resta com'è. Ecco, devo dire che appunto, come tu già anticipavi, Draghi ha detto che non hanno mai discusso di un cambio di direzione della Banca Centrale a giugno, e poi sul fronte politico, vedo già dei messaggi, Draghi ha detto, insomma, noi ci occupiamo di politica, di politiche economiche, non di politica. Il riferimento era una domanda sulle elezioni francesi e sul ballottaggio, soprattutto presidenziale, del 7 maggio. We don't do monetary policy on the likely outcomes of elections. Non facciamo politica monetaria in base a possibili esiti elettorali. Ovviamente ci chiediamo come l'incertezza politica possa influenzare le nostre decisioni di politica monetaria. Ci poniamo questa domanda e la risposta è che non reagiamo all'incertezza politica di per sé, ma inglobiamo questa informazione circa l'impatto dell'incertezza politica sullo scenario dei prezzi. Quindi si tratta solo di una delle informazioni che insieme alle altre esaminiamo per prendere le nostre decisioni di politica monetaria. Al Consiglio discutiamo di policies, di politiche, non di politica. Nel Consiglio direttivo abbiamo avuto una discussione sul bilancio dei rischi attinenti alla crescita, non all'inflazione. Voglio sottolineare questa importante distinzione. Alcuni componenti hanno avuto una visione più ottimistica della situazione economica e altri, riconoscendo che c'è stato un miglioramento delle prospettive di crescita, hanno ritenuto che questo miglioramento non giustificasse alcun cambiamento nella comunicazione riguardo il bilancio dei rischi. Alla fine, il Consiglio si è trovato d'accordo sui termini della comunicazione. In the end, the Governing Council agreed about this language. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi, anche se alla fine ha detto in the end. Io ricordavo che si dicesse at the end, ma non mi sembra questo dirimente. Alessandro Merli, veniamo appunto allo scenario economico. Draghi ha detto la ripresa è sempre più solida, i rischi scendono, però insomma l'inflazione non è ancora quella che vuole lui. L'inflazione infatti non si muove. Perché non si muove? Perché tutto sommato c'è ancora molte capacità inutilizzate nell'economia, magari non in Germania, però nemmeno in Germania ci sono delle pressioni che vengono per esempio dai salari. E quindi quello che abbiamo visto nei movimenti di inflazione sono semplici movimenti legati al prezzo del petrolio. Poi questo mese ci sarà un po' l'effetto Pasqua, perché l'anno scorso la Pasqua era in marzo, quest'anno era in aprile, ma queste sono questioni da statistici. Insomma, in realtà la BCE non vede pressioni sull'inflazione, cioè non vede l'inflazione buona, non vede l'inflazione che si sta riavvicinando in modo consistente per tutta l'area dell'euro verso il famoso livello sotto ma vicino al 2%. E come nella clip che avete fatto sentire chiaramente Draghi, è chiaro che la BCE non opera in un vuoto dalla politica e non opera sulla luna, insomma. Però è anche chiaro che Draghi si tiene ben lontano da qualsiasi valutazione politica. Però è altrettanto chiaro che c'è ancora un secondo turno delle elezioni francesi. Sarebbe stato singolare che la BCE facesse una restrizione di politica monetaria quando siamo ancora a cavallo fra primo e secondo turno, e non è poi che il secondo turno sia così. Sì, infatti io non concordo con chi considera già Macron vincitore, per nulla. Ancora, dicevi giustamente che Draghi da questo punto di vista vuole un'inflazione buona, chiarisco perché mi stanno scrivendo gli ascoltatori, l'inflazione cattiva è quella che tu importi perché cresce il prezzo del petrolio e che quindi di conseguenza crescono tutti i derivati, il trasporto e quant'altro. L'inflazione buona che vorrebbe vedere Draghi è quella di un'economia che, essendo pienamente ripartita, inizia a creare delle tensioni sui prezzi perché tutti consumano un po' di più, c'è più domanda e quindi i prezzi si spostano e crescono intorno al 2%. Per ora si vede solo quella esterna. Draghi non ha avuto commenti politici. Oddio, uno l'ha avuto ed è l'ultimo audio che vi facciamo sentire, nel ringraziare Alessandro Merli, su Trump, perché gli è stato chiesto, non è un commento diciamo forte, gli è stato chiesto se dopo gli incontri al Fondo Monetario dei giorni scorsi avesse le idee più chiare sulla direzione che intende prendere l'amministrazione Trump, e lui ha risposto non proprio. I think the main conclusion is that it would be premature to react or make policy decisions. Penso che la conclusione principale sia che forse in questo momento sarebbe prematuro reagire o prendere decisioni sulla base delle future politiche seguite dall'amministrazione statunitense. Potremmo dire che forse una cosa che è venuta fuori dagli incontri, ma è una cosa molto incerta, è che il rischio di protezionismo commerciale potrebbe essere in qualche modo diminuito. Il secondo punto è che certamente i mercati stanno facendo una rivalutazione della politica di bilancio statunitense. Onestamente, non mi sento di spingermi oltre. La ricordi quella domanda, Merli? La ricordo perché gliel'ho fatta io, anche perché la settimana scorsa eravamo appunto assieme a Washington con Draghi e Draghi sicuramente ha parlato in più occasioni con esponenti della nuova amministrazione, in particolare col segretario al tesoro Mnuchin. Però mi sembra appunto che non ne abbiano ricavato delle impressioni molto forti. È possibile che non tutto quello che esce da Washington in questo periodo, cioè dall'amministrazione Trump, piaccia a Draghi, però sta molto attento a non sbilanciarsi. In pratica dice: giudichiamoli sui fatti e non su quello che è stato detto, io i proclami che sono stati fatti fino a questo momento. Allora, grazie intanto Alessandro Melli in collegamento con noi da Francoforte. Vedo che molti mi hanno corretto per quella pseudo correzione a Draghi. At the end vuol dire la fine di un punto d'arrivo, and in the end è alla fine, come, quindi ha ragione anche stavolta e anche su questo Mario Draghi. Qualcuno mi corregge sulla pronuncia di Theuta, citando, io ho degli ascoltatori oggi particolarmente, citando Dante, il canto dell'inferno, e mi lasciai alla man destra, mi lasciai Sibilia, dall'altra già mi aveva lasciato Setta, ossia Theuta, per essere più precisi. Benissimo così, tutte correzioni accolte. Andiamo sul traffico, poi la borsa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, non c'è stato l'effetto Draghi sulle borse, un tentativo, poi nulla, soprattutto sulle banche italiane. Devo dire la peggiore Tenaris, meno 5,51, che non è una banca. Ovviamente Unicredit, meno 3,80, Banco BPM, meno 2,80, Biper, meno 2,70, UBI, meno 2,40, Intesa, meno 2,30%. Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le banche che sentono più altri elementi, ma insomma, è strano perché anche Deutsche Bank ha diffuso dati molto buoni, oggi Banca Intesa nell'assemblea degli azionisti ha confermato dividendi a 10 miliardi nel triennio al 2017, eppure nulla, Esattamente, oggi le banche sono state un po' una nota dolente a Piazza Affari, ma non solo. Come ricordavi, Deutsche Bank è stata molto debole alla borsa di Francoforte dopo i conti positivi. Quello che, su cui hanno posto, diciamo, più l'attenzione gli analisti, al di là dei risultati che erano buoni, è stato il fatto che, in particolare per quanto riguarda Deutsche Bank, che il mercato si è concentrato di più su quelli, sui ricavi da trading, che rappresentano una delle maggiori fonti di ricavo per la banca tedesca e hanno registrato un aumento dell'11% nei primi tre mesi dell'anno, che sì, una crescita, un dato positivo, però se si paragona questo dato a quello delle più grandi banche di investimento statunitensi è meno della metà degli aumenti medi di quest'ultime, e quindi già erano usciti ieri anche dei report sulle banche francesi in un momento in cui i tassi di interesse sono bassi. Draghi stesso ha detto che rimarranno bassi a lungo e questi tassi bassi vanno a rosicare, poi in qualche modo rosicchiare, scusate, la redditività delle banche. Rosicare un'altra cosa. Sì, esatto, un'altra cosa. Diciamo, vanno a incidere negativamente sulla redditività delle banche. Si va a vedere invece quanto possono rendere le altre attività, soprattutto quelle finanziarie, e proprio Deutsche Bank, che ha dato i conti, ha fatto vedere che sì, queste attività vanno bene, ma non così bene probabilmente come il mercato poteva aspettarsi. Tenaris sul resto, Eni meno 1,51, cito i titoli legati al petrolio, Saipem meno 2,80, Tenaris meno 5,50. Sì, Tenaris è stata la peggiore del segmento principale di Piazza Affari e ha perso alla fine il 5,51%, e diciamo nonostante i risultati siano stati buoni, perché appunto ha avuto una trimestrale positiva e anche i primi commenti degli analisti erano comunque positivi, perché i conti sono stati per quasi tutti gli analisti superiori alle attese, in qualche modo hanno anche sottolineato però che quest'utile del primo trimestre, che è stato molto alto è superiore a quello del diciamo sia dell'ultimo trimestre del 2016 che del primo trimestre del 2016 a paragone annuale, però è dovuto soprattutto alla cessione di un asset che è Republic Conduit e anche a un effetto di tasse positive in Messico e in Argentina, e quindi diciamo che i giudizi sono stati quasi tutti un po' cauti, hanno confermato i giudizi, anche perché per esempio secondo Banca Agos il mercato sta già scontando quello che è il miglioramento atteso di vendite e margini. Va bene, resta con noi Flavia, dopo il GR24 chiudiamo sugli altri titoli, a partire da chi invece ha guadagnato: Atlantia più 2,30, Exol più 1,20, come Moncler ricordati più 1%, e anche i migliori e peggiori. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Faccio notare che i due migliori in assoluto sono il derby da Roma, Lazio più 20,15, Roma Calcio più 14,30%. GR24. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Qui ad Olimpia sono nati i Giochi Olimpici nell'antichità per onorare Giove. Certe imprese sono possibili solo grazie agli dèi dello sport. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Io sono qui per raccontarvele, sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20.30, naturalmente qui su Radio 24. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Flavia Carletti, dicevamo dei migliori oggi: Atlantia più 2,27, Exor più 1,28. Tra l'altro Exor continua a guadagnare, mentre Fiat, dopo il balzo di ieri, dopo i conti, perde il 2,55%. Sì, appunto, Atlantia oggi è stata la migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione nel giorno in cui si è riunito il CDA, che dovrebbe discutere prendere una decisione sulla cessione del 15% di Autostrade per l'Italia. Indiscrezioni che sono uscite questa mattina dicono che dovrebbe essere data un'esclusiva ad Allianz, che quindi comprerebbe questa quota attraverso una sua divisione di investimento nelle infrastrutture, e questa offerta avrebbe battuto quelle arrivate dal fondo sovrano di Abu Dhabi, ADIA e Macquarie. E questa offerta, secondo indiscrezioni sempre, dovrebbe essere di 2,3 miliardi di euro, che è leggermente inferiore a quelle che erano le attese del mercato, però comunque questa cifra dovrebbe andare a essere usata per poi contribuire all'offerta per Abertis, anche se oggi nel CDA invece non dovrebbe essere affrontata la questione appunto dell'operazione con la società spagnola, che invece dovrebbe essere rimandata al prossimo mese di maggio. E in più il mercato comunque aspetta e si interroga su come verrà trattato il dividendo straordinario di 1,1 miliardi che l'Assemblea di Autostrade per l'Italia ha approvato lo scorso 21 aprile, quindi comunque c'è attenzione sul titolo su questi fronti. Mentre invece appunto Exor ha fatto il più 1,28, mentre invece due delle sue principali controllate, che sono CNH e Fiat Chrysler Automobiles, sono andate male, ma per diciamo Fiat FCA per questioni di realizzi dopo il balzo di ieri, mentre invece CNH diciamo, ha avuto un'accoglienza un po' fredda ai conti, soprattutto legate all'indebitamento, mentre per Exor l'unica notizia che ha riguardato in qualche modo oggi la società è stato che il CAN ha confermato l'impegno suo e della società nella futura GEDI, che è la società che verrà a crearsi con l'integrazione di Itedi nel gruppo editoriale L'Espresso, però appunto non ci sono state altre indicazioni specifiche. Dunque, invece qualche indicazione arriva dai bilanci. Allora, l'Assemblea di Poste Italiane ha approvato il bilancio 2016, l'Assemblea degli azionisti, con un utile di 622 milioni di euro. Ricordavamo anche ieri come altre due ex carrozzoni di Stato, considerati tali, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato, siano inutili. Qualcuno mi ha contestato sulle Poste, a differenza di Alitalia. Comunque, 622 milioni di euro l'utile nel 2016, lo Stato incasserà attraverso la Cassa Depositi e Prestiti 180 milioni di dividendo, il Tesoro 151 milioni. Invece, oggi in Assemblea, già lo ricordavamo anche le generali a Trieste, per quello che riguarda il bilancio, 98% dei voti a favore del bilancio, utile di 2 miliardi e 100 milioni di euro, più 2,5% sull'anno precedente per il Leone di Trieste, e dividendo di 80 centesimi per azione pagato dal 24 maggio. Interessante che Donè, il numero uno delle generali, Philippe Donè, riguardo alla quota comprata di Intesa San Paolo del 3%, che fu la mossa dell'arrocco quando c'era il timore, più che un timore, era proprio un dossier allo studio da parte di Intesa San Paolo di scalare e lanciare un'offerta sulle generali. Ricorderete che la mossa sorpresa regionali fu di comprare il 3% in modo da creare quello che è il vincolo delle partecipazioni incrociate, e Donè ha detto che la venderanno a breve, nel senso che adesso il timore non c'è più e quindi possono cedere la quota del 3%. Grazie anche a Flavia Carletti. Migliori e peggiori, oltre alla Lazio e alla Roma, la Juventus, cioè i tre migliori sono tre squadre calcistiche, più 7,75% la Juventus, la Deutsche Börse, non so come si pronunci, più 6,13%. Invece i peggiori, Poligrafici Printing meno 5,80, Munich Re meno 5,60 e appunto Tenaris meno 5,50, anche Deutsche Lufthansa meno 4,50%. E prima di arrivare all'Italia, per riprendere il ragionamento e l'analisi fatta ieri, vorrei aprire una brevissima parentesi su quello che sta capitando non tanto al maltempo in senso stretto, ma all'agricoltura, perché è già intervenuto anche oggi il ministro Martina, bisogna aiutare le aziende agricole colpite dal maltempo e risolvere le criticità che gravano sulle polizze contro le avversità atmosferiche. Codice giallo in Toscana per temporali fino a sabato, ma soprattutto un'allerta temporali e vento forte in tutto il nord-est, oltre che su parte della Lombardia. Ma da quello che ho capito, a preoccupare gli agricoltori è soprattutto il tempo, il meteo. E allora siamo in collegamento con il presidente di Confagricoltura e componente della giunta nazionale di Confagricoltura e presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Ci dica una cosa, il problema, la battuta che facevano prima alcuni ascoltatori, quando non piove vi lamentate che è secco, quando piove vi lamentate che piove troppo, ma in realtà, se ho ben capito, sono le temperature, oltre che il vento, e quell'avvio di primavera anticipata che aveva già fatto germogliare gli alberi da frutta, per esempio. Esattamente, esattamente. Sì, la battuta che gli agricoltori si lamentano sempre è ricorrente, ma bisognerebbe essere nei nostri panni e uno smette subito di scherzare. È stato un marzo molto caldo, forse più caldo della media degli ultimi 40 anni, quindi la vegetazione era molto avanti in parecchie coltivazioni, e nelle notti scorse fra il 19 e il 20 aprile c'è stato un repentino abbassamento delle temperature unito a un forte vento gelido e a grandinate che ha colpito tantissime regioni italiane simultaneamente, con un fenomeno che non si vedeva veramente da tempo. Quindi la grandine e il gelo hanno colpito da dove, insomma, c'erano stati? Praticamente tutto il nord Italia, fino a Latina, fino al centro Italia e poi a macchia di leopardo anche il sud. I grossi danni sono stati dati dal gelo unito al vento forte che ha colpito particolarmente vigneti, frutteti, pomodoro industria, ha compromesso la fioritura delle acacie ponendo dei seri problemi anche agli apicoltori, sì. E anche le orticole a pieno campo ne hanno risentito. In alcune zone, come in Emilia, ci sono state anche delle grandinate che hanno colpito ovviamente i frutteti. Ma è messa peggio la parte ortofrutta, quindi gli alberi, o la parte vitivinicola? Perché abbiamo ricevuto... direi che sono messe male entrambe. Mm. Per la frutta parliamo di produzione interamente persa per le albicocche, per i kiwi in molte zone. No, perché mi scrivono anche molti ascoltatori dalle parti dell'Emilia che dicono che coltivano kiwi, appunto. Esatto, completamente persa? Sì, sì, per quest'anno si parla di danni dal 60 fino al 100% sul kiwi, e altrettanto si può dire in molte zone sulle albicocche, e anche purtroppo in alcuni casi in vigneti. Io ho visto delle immagini del Chianti, dell'Umbria, molte zone dell'Oltre Po Pavese, della Franciacorta, del Piemonte. È una cosa molto diffusa in Veneto, in Friuli, praticamente dappertutto fino al centro Italia, e poi più a macchie di leopardo al sud. Questo vuol dire che dobbiamo attenderci degli aumenti anche nell'ortofrutta? Ma questo è sempre una cosa difficile da valutare, perché ormai con i mercati globali, però sì, mettiamo nel breve termine, è probabile che ci sia qualche aumento, e anche in alcuni casi proprio scarsità di merce. No, perché la regione che lei cita, l'Emilia Romagna, è una delle prime sulla frutta, soprattutto in questo. Sull'ortofrutta è una delle prime a livello europeo, ed è un vanto della nostra agricoltura, perché siamo esportatori. Quindi niente albicocche italiane e kiwi italiani quest'anno? Beh, per fortuna questi fenomeni sono sempre a macchia di leopardo, quindi qualche cosa si è salvato, però ecco, diciamo che erano le colture nello stato vegetativo più sensibile, più delicato, quindi sono state colpite in maniera più pesante. Allora, dunque, Valtellina, mi scrive un ascoltatore, si è perso il 70% della produzione vitivinicola. Un altro ascoltatore mi scrive, in Franciacorta, già, grazie alla gelata abbiamo avuto un 50% in meno di produzione vinicola. Però, insomma, sono i dati anche che abbiamo noi, che sono ancora da confermare, perché comunque bisogna poi vedere la reazione che hanno queste piante, che a volte è sorprendente, però ecco, le colture in quello stato vegetativo è molto difficile che si riprendano. Sul vigneto si può riprendere qualche cosa, ma ci saranno comunque dei drastici cali di produzione. In bocca al lupo. Certo che la situazione non dipende da nessuno, ma eccolo che mi scrive qualcun altro. Scusate, ma a noi cosa dovrebbe interessare? Beh, insomma, a parte che l'agricoltura è un settore di questo paese, poi penso che la bicocca e i kiwi li mangia anche lei, non so di cosa vuole che parliamo. Sì, altri mi segnalano che invece ci sono problemi ancora di siccità a Borgo da Alessandria. Tutti i kiwi sono andati senza produzione. Va bene, non so, devo occuparmi solo di finanza, di derivati, no? Ogni tanto mi occupo anche di agricoltura, perché come tutti ci tengo, immagino come tutti, l'agricoltura italiana. A Biella bruciata tutta la produzione di spanna, coratina e bramaterra. Vabbè, adesso basta, perché devo passare dall'Italia, però il dato è chiaro. Vedremo poi se il Ministero, voi avete chiesto già al Ministero di intervenire? Noi abbiamo chiesto di intervenire soprattutto per semplificare le procedure assicurative, perché ormai i rimborsi sono solo per le colture che non sono assicurabili, che sono pochissime, e purtroppo il sistema delle assicurazioni che ha messo in piedi il Ministero, con la, devo dire, la complicità del ASNACODI, che è l'associazione dei consorzi di difesa, ha creato un mostro burocratico che rende praticamente impossibile e comunque molto difficile per gli agricoltori assicurarsi. E quindi tant'è vero che le assicurazioni contro le calamità naturali in agricoltura sono crollate del 30-40% negli ultimi anni, perché gli agricoltori ormai sono stufi di perdere tempo a fare delle carte e non riuscire poi ad avere una copertura. Sì, infatti c'è una lettera dei deputati del PD, Massimo Fiorio, Susanna Ceni, Luciano Agostini, Marco Cara, Alessandra Terrosi e Renzo Carrella proprio al Ministro Martina, perché risolva il problema le criticità delle polizze contro le avversità atmosferiche. Visto che parlavo del bilancio delle generali, per chi di voi andasse mai una volta alle generali, nella foresteria sono tutti i poster di inizio secolo in cui le generali assicuravano gli agricoltori dal rischio climatico, per cui insomma strano che adesso ce ne siamo dimenticati, visto che le assicurazioni in Italia nascono anche per assicurare gli agricoltori, fa parte della nostra storia. Grazie e in bocca al lupo per quello che può valere a tutti gli agricoltori italiani. Grazie a Luca Brondelli, appunto, della Giunta Nazionale di Confagricoltura e Presidente di Confagricoltura Alessandria. Traffico. Focus Economia. Rispondendo ai precedenti quesiti, ho già illustrato le prospettive per l'Alitalia e il ruolo svolto dal Governo. Ricordo quindi che si condivide la preoccupazione per il destino dei lavoratori, ma al tempo stesso che non è perseguibile alcun intervento diretto dello Stato e indiretto nel capitale della società. Confermo l'impegno del Governo, ove effettivamente l'impresa delibererà di richiedere all'amministrazione straordinaria, a procedere con la massima tempestività all'apertura della procedura e alla nomina dell'organo commissariale straordinario, con il compito di provvedere alla gestione dell'impresa e di predisporre ed attuare un programma che consenta una gestione conservativa dell'insolvenza ai sensi della legge Marzano. Mi sembra una vicenda che sia specchio del Paese. Viviamo una fase di emergenza come Paese e non c'è questa consapevolezza. C'è sempre qualcuno che pensi che paghi un altro. Invece in questo momento storico evidentemente occorre scambiare in questo presente impegni e sacrifici per costruire il futuro. Speriamo bene, speriamo che la vicenda si chiuda al meglio, anche se la strada è veramente difficile. Speriamo non impossibile. Ora, nell'ordine, avete ascoltato su Alitalia il ministro dell'economia Padoan, che ufficializza diciamo, l'apertura del commissariamento su Alitalia, e il presidente Confindustria Bocce. Altre reazioni le avevo già date in apertura del programma. Intesa San Paolo ha detto, insomma, Messina numero uno, siamo aperti a qualunque soluzione. Poi il presidente Grosspietro ha chiarito che l'esposizione di Intesa verso l'Italia è di 185 milioni di euro assorbibili nella gestione ordinaria, visto che hanno già accantonato 100 milioni. Le FS hanno declinato, non è di interesse, non c'è nessun contatto. Lufthansa ha smentito categoricamente di essere interessata dall'Italia. E qui siamo dove ci eravamo lasciati ieri, con una domanda insoluta che ripropongo al nostro ospite, e mi riferisco ad Antonio Bordoni, autore di un libro, Alitalia, gli anni dell'oblio, e che ha passato 30 anni in varie compagnie aeree con il ruolo di financial controller e station accountant. Buonasera di nuovo, Bordoni. Buonasera a tutti. Buonasera. Avevo promesso che avremmo concluso il ragionamento. La domanda è molto semplice. Oggi ho visto che anche Lufthansa ha fatto il primo trimestre inutile, il primo trimestre dell'anno, che è sempre più difficile, è tornata all'utile operativo. Come hanno fatto le compagnie TAP portoghese, Iberia spagnola, Olympic, che poi è diventata Aegean Grecia, a tornare inutile nel 2016, visto che ieri eravamo tutti quanti d'accordo che, al di là del voto e del referendum, il piano stesso presentato da TIAD fosse molto lacunoso, cioè non spiegava, al di là dei tagli, per carità, necessari, non lo metto in dubbio, ma non spiegava come rilanciare industrialmente all'Italia, cioè che tipo di identità dare sulle lunghe distanze, la clientela più di business, oppure far concorrenza low cost. Come ce l'hanno fatta altri paesi, tra virgolette, simili a noi, quantomeno climaticamente? Allora, ieri avevamo parlato innanzitutto di Swiss, controllata Lufthansa, che anche lei ha chiuso il 2016 inutile. Per andare direttamente alla sua domanda, allora, la TAP portoghese, che fra l'altro è controllata ancora al 50% dal governo, quindi è privatizzata solo parzialmente, come ho detto ha prodotto un utile al 31 dicembre 2016 di 34 milioni di euro. La TAP, per esempio, è specializzata sull'Atlantico meridionale, poche rotte sull'Africa, un discreto numero di rotte in Europa, assolutamente l'Estremo Oriente non lo tocca, e però appunto ha la specializzazione Sud America, ed evidentemente tutti i collegamenti europei servono per fideraggio da Lisbona poi alla tratta sud-atlantica. La Aegean Airlines, 32 milioni di utile, ha assorbito l'Olympic, era il secondo vettore greco, e sarebbe stato la nostra Air One, quella che noi abbiamo fatto sparire con l'assorbimento di Alitalia. Così come Aegean ha assorbito Olympic Airways, pur essendo nata dopo e pur essendo un vettore di seconda categoria rispetto all'Olympic Airways, la compagnia di bandiera, la Air One, per esempio, oggi, se fosse ancora in vita, potrebbe ben proporsi, si sarebbe ben potuta proporre come... Sì, oddio, guardi che quella volta lì fu all'Italia a salvare Air One, perché l'intera operazione... Ci sono stati i giochi bancari che conosciamo. Esatto, perché era esposta molto con Banca Intesa, quindi, al tempo. Insomma, lì devo dire che l'Italia fu più vittima del piano che altro, comunque. Sì, e se ricordate bene, Air One era quella che doveva rilanciare l'Italia sul lungo raggio, perché aveva comprato gli A330 e gli A340 che poi sono stati cancellati. Comunque, veniamo a Iberia. Allora, Iberia pure ha un suo piano ben preciso, nel senso che fa parte del gruppo IAG e ovviamente si sono suddivisi le rotte fra British Airways, fra Aer Lingus, fra Vueling. Fa parte di un gruppo, come avrebbe potuto far parte all'Italia con Air France e KLM, anche lì rotte razionalizzate, sinergia fra vettori, utile di 153 milioni al 31 dicembre. Quindi la prima considerazione è che si può fare, cioè non c'è un destino ineluttabile, cinico e baro che obbliga l'Italia a fallire, nel senso che se fallisce, fallisce per volontà umana, incapacità manageriale, resistenze sindacali, ma non perché strutturalmente le ex compagnie di bandiera anche del sud Europa, quindi che non vantano aeroporti come Londra o Francoforte o Monaco o Amsterdam, possono restare in piedi e fare un utile di qualche decina di milioni. Noi metteremo la firma. La risposta è assolutamente sì, ed ecco perché ieri ho detto che io ho visto favorevolmente la vittoria del no, perché secondo me se qui continuiamo con le soluzioni tampone, cioè del campare alla giornata, come si suol dire, non se ne esce mai. Però questa sua analisi, mi scusi Bordoni, è anche un'accusa, tra virgolette, alla strategia di Etihad. L'Italia non ha 25 aerei, ne ha 121. Il problema è che quelli a lungo raggio sono aumentati di pochissimo, sono ancora 25, 76 a medio, 25 a corto. Allora, il problema cos'è stato? Visto che le perdite si sono accumulate anche nella gestione Etihad, perché 600 milioni in due anni sono in linea, diciamo così, con le perdite dal 2012 in poi. Dicevo, il problema è stato non puntare, volere far tutto o continuare a mantenere, non so, Roma anche per rotte che andavano su Abu Dhabi, o non capire o non decidere che... No, c'è una spiegazione, guardi, c'è una spiegazione. Purtroppo, come penso voi sapete, le tre compagnie del Golfo, non dico che sono in crisi, ma attraversano un calo, di calo degli utili. Nel senso che ci sta un'offerta di capacità eccessiva, la Emirates ha cancellato l'opzione per 12 A380, o meglio l'ha ritardata l'ordinazione, perché proprio insieme a Etihad, insieme a Qatar Airways, si trovano in un momento di, tra virgolette, di crisi, perché c'è un eccesso di capacità, si sono riempite le flotte di A380 e c'è stata questa speranza che il punto di passaggio del Medio Oriente continuasse a crescere all'infinito e purtroppo non è stata così. Da questo punto di vista devo dire che l'Italia è stata sfortunata, perché è capitato in un momento in cui le tre compagnie del Golfo, e questo nessuno se l'aspettava, hanno avuto questo calo degli utili e quindi si sono un po' di attenzione che noi non investiamo più. Bordoni, io devo chiudere, mi dice in un titolo che cosa farebbe lei? La trasformerebbe in una low cost o andrebbe ancora di più in una settorializzazione come quelle che lei ha ricordato? Una o due? Ma guardi, scartiamo Lufthansa? È Lufthansa che si è scartata da sola oggi, più o meno. Allora no, perché una Swiss io la vedo molto favorevolmente, nel senso controllata una Lufthansa tipologia Swiss controllata a un'Alitalia tipologia Swiss controllata da Lufthansa la vede molto favorevolmente. Oggi c'è da sperare una cosa, guardate, mi dica così, che chiudiamo. La butto lì, la Qatar Airways, alla luce degli ultimi avvenimenti che sono successi in Italia, potrebbe rivedere al rialzo il rilancio di Meridiana, perché voi sapete bene che Qatar Airways sta investendo in Meridiana, ha promesso aerei nuovi. Allora, alla luce di queste nuove situazioni che si è verificata dall'Italia, potrebbe così rilanciare la sua proposta su Meridiana e farne il vettore principale. Allora, potrebbe... noi saremmo qui a raccontare ancora la storia dell'Italia, speriamo a breve con esiti positivi. Però una cosa deve essere chiara a tutti, e poi chiudo, che anche se arrivasse il salvatore Lufthansa, i tagli previsti sono massicci. Il piano prevede 3.000 al massimo dipendenti, ce ne sono in questo momento 12.500. Grazie anche a Bordoni, veramente tutto. Noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica di Focus Economia. Radio 24. Libera la voglia di fare.